ho scoperto ancora la sua ricetta. L'amore viene a che ora che parte, aspetto a tavola bicchiere e forchetta. Senza pazienza, ma santa pazienza, da quanto tempo sopportiamo le pazze. Senti il rumore, la moca è già pronta, son sempre a tavola vicino alle tazze. E se la prendi così, attenta al mondo che dice, alle tue spalle c'è un vecchietto che avanza. E se gli dici di sì, combatti bene che lui sarà pur forte ma è minoranza. Butta a terra chi vuoi, fagli piacere che poi, come al solito il vecchietto che avanza. Stai bene con i miei e salutami tuoi, ma stiamo attenti al vecchietto che avanza. La forza viene, la forza che va, non riesco più a sollevar la valigia. Sarà che il tempo mi fa brutti scherzi, oppure è questione di vitamina. La barba spunta, tra peli son bianchi, e poi dimentico di alzar la cerniera. Che razza d'uomo ti sei rimbambito, ma meno male che c'ho l'alzabandiera. E se la prendi così, attenta al mondo che dice, alle tue spalle c'è un vecchietto che avanza. E se gli dici di sì, combatti bene che lui sarà più forte ma è minoranza. Butta a terra chi vuoi, fatti piacere che poi, come al solito il vecchietto che avanza. Stai bene con i miei e salutami tuoi, ma stiamo attenti al vecchietto che avanza. E se vi dico che io ancora 15 anni, chi ci crede? Nella testa sono un bimbo come tanti, non si vede. E se vi dico non ho fatto tanti danni, chi la beve? Stai bene con i miei e salutami tuoi, ma stiamo attenti al vecchietto che avanza.